Oggi siamo qua come Brigata di Solidarietà, come volontari e come promotori della manifestazione regionale del 2 giugno, e perché in queste settimane in cui siamo andati a spalare in tutta la Romagna, da Sant'Agata sul Santerno a Lugo, a Faenza, a Forlì, abbiamo notato una grandissima solidarietà popolare da parte appunto di tutta la popolazione, sia quella romagnola che quella emiliana, che quella di tante tante compagne volontari che sono venuti da altre parti d'Italia. Ma una cosa abbiamo notato, ovvero l'assenza quasi totale dello Stato, e anche in quei pochi casi in cui i mezzi pesanti dello Stato erano presenti, erano in numero assolutamente insufficiente per far fronte a un'emergenza di dimensioni così tanto grandi come quella che ha colpito l'Emilia Romagna in queste settimane. Siamo qua davanti alla caserma dell'esercito in primis, perché l'esercito in questo momento sarebbe la forma necessaria, diciamo, e quella che ha i mezzi adatti, in particolare quelli del genio militare, per fornire supporto alle popolazioni, quindi banalmente iniziare a spurgare tutta l'acqua e il fango dalle cantine, iniziare a eliminare il fango che ancora sta sulle strade, che con questo caldo sta diventando sempre più secco, e quindi le vanghe che possiamo portare noi volontari non sono più uno strumento adatto a tirarlo via, ma anche perché in questi giorni stanno avvenendo esercitazioni militari in Sardegna, all'interno del contesto della NATO e all'interno di un contesto bellico molto più ampio, in cui sono schierati oltre 4.000 uomini e centinaia di mezzi. Quindi, oltre al dispiego di forze che, anziché essere impiegato in Sardegna per esercitarsi in vista di una futura guerra, dovrebbero, secondo noi, essere dispiegati in Emilia-Romagna per dare un supporto concreto alla popolazione, è anche una questione di finanziamenti, nel senso che tutti i soldi che in questi giorni stanno venendo spesi appunto per queste esercitazioni militari, secondo noi, andrebbero spesi per dare una mano concreta alla popolazione, andrebbero spesi per dare una garanzia di futuro, per dare una garanzia di prospettive alla popolazione che in questi giorni ha perso macchina, ha perso la casa, nei casi peggiori ha perso parenti, familiari, amici. Quindi per questo la scelta di presentarci qui davanti alla caserma dell'esercito, per ribadire che l'esercito non deve essere un mezzo di guerra, anche la nostra Costituzione ricorda che l'Italia ripudia la guerra, ma deve essere un metodo di supporto alle popolazioni colpite. Bene. Sabato partiremo alle 10:30 da Piazza dell'Unità, per poi muoverci prima verso Piazza Liber Paradisus a portare il nostro saluto alla tendata di Asia USB, che appunto porta avanti insieme a noi anche la lotta per il diritto all'abitare. Io voglio ricordare che il primo giorno di allerta rossa in Emilia Romagna noi eravamo presenti a Minerbio, un picchetto di Asia USB, in cui, mentre in tutta la regione si diceva ai cittadini di rimanere in casa perché l'acqua si stava alzando e perché c'era il rischio concreto per la salute delle persone, il comune non si è fatto alcun tipo di problema a mandare per strada una famiglia con padre, madre e due minori, di cui uno malato. Quindi appunto il corteo partirà alle 10:30 da Piazza Unità, porterà il saluto alla tendata di Asia USB e la nostra solidarietà completa alla lotta per il diritto all'abitare che portano avanti, e che soprattutto nelle zone colpite dall'alluvione nei prossimi mesi sarà una tematica, secondo me, molto importante, perché le case, per come sono messe adesso, sono quasi del tutto distrutte a causa del fango e dell'acqua. E poi ci sposteremo sotto la regione, perché sì, siamo bravi ad andare a fare mutualismo, ad aiutare le persone, ma ricordandoci sempre chi sono i responsabili, soprattutto in Emilia Romagna, della grande tragedia che è avvenuta, chi è che per 10 anni ha cementificato il nostro territorio costruendo hub della logistica, cementificando, abbassando gli argini, e quei responsabili sono del Partito Democratico, sono Bonaccini, sono Elly Schlein, sono la giunta regionale che appunto per 10 anni ha massacrato il nostro territorio, e quello che è successo oggi, in questi giorni, lo dimostra.